falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, e ti avrò. Oggi raccontiamo la storia di un ragazzo nero, un grandissimo rapper afroamericano che è diventato famoso in tutto il mondo a 20 anni. In pochissimo tempo ha saputo trasformarsi in uno dei punti di riferimento più importanti della Black America. È uno che ha venduto oltre 75 milioni di dischi. È diventato uno dei poli della celebre faida, perché non era più una rivalità, era una vera e propria faida hip hop tra East Coast e West Coast. Ha fatto tutto questo in soli 5 anni prima di venire ucciso in un agguato a Las Vegas nel 1996. Il suo nome è Tupac Shakur e lui si autodefiniva un poeta. I started off with poetry, writing poetry. Sono partito dalla poesia, scrivendo poesia a scuola, alle medie e poi alle superiori. Ma siccome i poeti sono considerati un po' degli imbranati, anche se io personalmente scrivevo poesie, iniziai a trasformarle in canzoni. E questo mi mise più in luce. Al rap mi appassionai perché lo ascoltavo fin da piccolo e stavo già facendo rap quando scrivevo poesie. Poi sentì alla radio che c'erano altri poeti che incidevano dischi e che vendevano e funzionava. Allora decisi di cambiare il metodo della mia poesia. D'altronde la parola rap è un acronimo e io credo che magari forse anche alcuni rapper odierni non sanno cosa vuol dire rap. Rap vuol dire rhythm and poetry, ritmo e poesia. E quindi Tupac Shakur entra proprio nell'essenza stessa del rap quando dice che lui inizia scrivendo poesie. Quello che eventualmente potrebbe stupire è che una passione del genere, la poesia, arrivi in così giovane età a un ragazzino nelle sue condizioni familiari e sociali. Per questo che la storia di Tupac Shakur va raccontata dal suo inizio, perché bisogna comprenderla bene. Lui nasce a New York 16 giugno 1971 con il nome di Lisan Parrish Crooks, ma quando ha 6 anni la madre, Afeni Shakur, lo ribattezza Tupac Amaru, che significa serpente brillante, in onore di Tupac Amaru II, che era un rivoluzionario del Perù, era il capo della rivolta contro i colonizzatori spagnoli. Quindi diciamo che lui nasce non proprio con una mamma tranquilla che si occupa della famiglia e dei figli, perché la madre è membro delle mitiche Black Panther, che era l'organizzazione rivoluzionaria in lotta, anche in lotta dura e violenta contro le discriminazioni razziali a favore dell'emancipazione degli afroamericani. Tupac ha con lei un rapporto speciale e le dedicherà tra l'altro una stupenda canzone, Dear Mama. You always was the black queen, mama. I finally understand, for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Baby, don't you know that love is sweet? Dear mama. Baby, please know what I'm loving. You all appreciate it. Al momento della gravidanza, Afeni Shakur, la madre di Tupac, è in galera e accusata di avere piazzato un ordigno esplosivo in un edificio, quindi roba pesante. Viene rilasciata un mese prima della nascita del figlio di Tupac e il cantante in più di un'intervista scherzerà su questo fatto, dicendo di essere stato in galera fin da piccolissimo, anche prima di nascere. E Afeni è la prima sostenitrice e fan di suo figlio. Ho sempre saputo che Tupac era dotato e creativo, ma l'altra cosa che ho sempre saputo era il peso che si portava dentro. Era il figlio di una persona come me, considerata una radicale in questo paese. Questo paese non vede di buon occhio persone come me. Quindi ho sempre saputo che Tupac non poteva essere solo un cantante, doveva capire chi era. E questo non significava correre in giro ballando e saltellando della serie supererò tutto ballando. Non credo sia possibile. Ho sempre saputo che era speciale. Con questo non voglio dire che avessi il minimo sentore, che sarebbe diventata la persona che era, che avrebbe prodotto il materiale che ha prodotto. Non lo sapevo, come non lo sapevano gli altri, ma sapevo che mio figlio era speciale. Io ho insegnato ai miei figli che erano speciali. Tutto speciale, anche il nostro regista Luigi, speciale. È evidente che una figura materna come questa influenza enormemente la formazione di Tupac, che ruota tutta intorno alla filosofia delle Pantere Nere. Lui vive insieme alla madre, alla sorella Xekiwa, in condizioni di grandissima povertà. Non hanno neanche una fissa dimora, spesso dormono nei ricoveri per i senza tetto. Anche questo, insomma, i rapper nostrani, quando dicono io arrivo dalla strada, dovrebbero sentirsela bene questa puntata. Nell'86, quando Tupac ha 15 anni, i tre si trasferiscono a Baltimora, nel Maryland, dove il ragazzo viene accettato nella Baltimore School for the Arts. E qui studia teatro, musica, ballo, recitazione, e quindi c'è una prima svolta, direi un colpo d'ala. Conosce una compagna di classe destinata a diventare una sua amica inseparabile, Jada Corrine Pinkett, futura attrice e cantante di successo e nonché moglie dell'attore Will Smith. We met at Baltimore School for the Arts. Ci conoscemmo alla Baltimore School for the Arts. Era il primo giorno e lui venne da me e si presentò. Al liceo Pac aveva un aspetto un po' buffo. Sicuramente a prima vista non era il tipo che avrei minimamente considerato. Ma appena mi rivolse la parola fu come una calamita. Appena gli prestavi attenzione ti risucchiava. E da quel momento andammo sempre d'accordo. Mi diceva continuamente, Giada, diventerai una star. Io gli rispondevo, dai Pac, piantala. E lui, tu sarai una star, hai la stoffa, ce l'hai. Secondo me nessuno dei due credeva veramente che saremmo arrivati dove siamo arrivati. Ma sapevamo che qualcosa avremmo fatto. Era uno dei miei migliori amici, un fratello. Quando lui ha 17 anni, la sua famiglia si sposta in California, quello che in una alta trasmissione di tanti anni fa avrei definito il bivio di Tupac, perché questo è il passaggio fondamentale della sua vita, è il cambiamento che dà il via a tutto. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Sell it back to the kid. I gotta get paid. Well, hey, well, that's the way it is. Come on. Come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh, yeah. Hear me. Oh, come on. Come on. That's just the way it is. Things will never be the same. The same, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. It's just the way it is. Yeah, it is. Oh, yeah. Il falco e il gabbiano. Tupac Shakur ha 17 anni quando si trasferisce dalla East Coast alla West Coast in California. Un cambiamento radicale, perché il ragazzo deve trovare il modo di mantenersi, e all'inizio lo fa come fanno tutti quelli come lui, cioè spacciando. Però sono i suoi stessi fratelli neri che lo incoraggiano, lo spingono a tentare la strada del rap. Grazie a alcuni amici comuni riesce a sostenere un'audizione con Shock G, che era il leader di un gruppo hip hop, i Digital Underground di Oakland. Shock G ha il merito di avere scoperto Tupac e non ha dubbi fin dall'inizio. Quel ragazzo ha un talento enorme e lui impara a rappare, ma soprattutto inizia quel processo di trasformazione che lo porta a mettere in musica le sue parole, a unire ritmo e poesia, l'essenza del vero rap. Cos'è il rap? Il rap è poesia, è raccontare storie in poesia, con o senza musica. Puoi fare rap anche da solo, anche un pentametro giambico il rap. È il modo in cui lo scrivi, la sua struttura. Ma per quanto riguarda il ritmo, la musica, suppongo che non si venderebbe lo stesso senza. La musica che accompagna il rap è più un modo per vendere che una necessità. Pentametro giambico, un concetto che tutti i rapper di oggi conosceranno a menadito, immagino. La posizione di Tupac è molto chiara, sono i testi quelli che contano. Lui vuole dire delle cose, spesso quelle cose fanno discutere, non fanno piacere a tutti perché mettono in evidenza le problematiche dei giovani di colore. Parlano della vita difficile nei ghetti, parlano di razzismo, emarginazione sociale, alcolismo, droga, prostituzione, parlano della violenza tra le gang di strada, tutti i temi tipici del rap, ma anche i temi della vita vissuta, quella che lui vede e vive realmente tutti i giorni. Tupac spiega perché il rap chiede in continuazione e chiede in modo tanto arrabbiato. Se io so che in questa stanza di hotel c'è cibo tutti i giorni e io busso alla porta per mangiare tutti i giorni e loro aprono la porta e io vedo dentro una festa e tanti salami appesi in giro, vedo che loro il cibo lo buttano e a me dicono non ce n'è di cibo, e questo ogni giorno, io sto fuori e canto per dire che voglio entrare. Dopo una settimana la canzone cambia. E dopo due, tre settimane, e dopo un anno spacco la serratura e dentro. Hai fame, alzi il livello. Il rap chiede. Noi abbiamo chiesto 10 anni fa, chiesto e chiesto, ma quelli che chiedevano sono tutti morti in galera. Quindi cosa pensate che dovremmo fare? Beh, non sono temi facili quelli di cui vuole parlare Tupac, però lui ci riesce anche grazie all'aiuto della Digital Underground. Il 12 novembre del 1991 esce il suo primo album, Tupocalypse Now, dove l'appena ventenne Tupac Shakur dimostra un talento eccelso, un'abilità d'artista di grande esperienza nel mixare tracce orecchiabili con messaggi molto forti, messaggi duri, rivoluzionari. Trattare i temi legati al razzismo, alla vita nel ghetto, alla povertà che toglie la speranza. Però esprime anche il suo rispetto per le madri nere sole che lottano tutti i giorni per allevare i loro figli. Ancora un omaggio a sua madre, a Feni. Barely got a breath, a damn shame. The girl can hardly spell her name. That's not a problem, that's up to Brenda's family. Well, let me show you how it affects our whole community. Now, Brenda really never knew her moms, and her dad was a junkie putting death into his arms. It's sad, cause I bet Brenda doesn't even know. Just cause you're in the ghetto doesn't mean you can't. Brenda's Got a Baby scala immediatamente le classifiche statunitensi. In pochissimi giorni l'album, grazie al passaparola tra i giovani, ottiene il disco d'oro. È un successo enorme per un giovane rapper al suo esordio. Però lui sembra avere una calamita per i guai, perché Tupocalypse Now è oggetto di pesantissime critiche mosse da Dan Quayle, che è il vicepresidente degli Stati Uniti. Il presidente è George W. Bush. Questo signore accusa Tupac di incitare alla sommossa contro la polizia locale. Lui viene interrogato dalla polizia, però si sa difendere molto bene. Volevo commentare la seguente frase: sono una vittima per davvero, mi hanno fatto il culo, i poliziotti non mi piacciono proprio. Io non ho mai detto questo. Ma dove sta leggendo? Non dice così. Io dico: sono una vittima per davvero, mi hanno fatto il culo, quelli non mi piacciono proprio. Siete voi che avete scritto la parola poliziotti. Ma lei si riferiva ai poliziotti? No. A chi allora? Ai poliziotti corrotti. Ho capito. Invece gli altri poliziotti le stanno bene? Le piacciono gli altri? Mi piace tutta la gente che fa il proprio lavoro. Se incontro una persona leale, buona e giusta, allora mi piace. Specialmente nella posizione in cui si rischia la vita. Se si rimane corretti nei confronti degli altri, mi piace, sì. Uno così io lo ammiro. Beh, questo dialogo è la prova che l'intelligenza, la lucidità e la proprietà di linguaggio possono fare molto nella vita, perché non si è fatto incastrare da quella serie di domande. E quindi, nonostante gli sforzi di Dan Quayle e la sua campagna a favore della moralità e la denuncia pubblica dell'album che non dovrebbe, dice lui, avere spazio nella nostra società, il disco è un disco di grande successo. A tutt'oggi ha venduto oltre 1 milione di copie. Intanto Tupac inizia anche una promettente carriera come attore, partecipa come comparsa a nient'altro che guai di Dan Aykroyd e recita in maniera sorprendente in Juice di Ernest Dickerson. È uno dei protagonisti di Poetic Justice, in cui recita a fianco di Janet Jackson. Lucky, questa è Justice, Justice questa è Lucky. Sei sempre così silenziosa? È inutile, non urlare così. Già, non ho niente da dire. Perché sei arrabbiata? E cosa c'è che ti fa arrabbiare? Sei forse una di quelle puttane incazzate, una femminista. Come mai chiamato? Sei forse una puttana incazzata. No, sei sulla strada sbagliata allora. Tu non sai un cazzo di me, va bene? E non riprovare a chiamarmi puttana, non sai niente di me. Io qui mi sforzo a essere educato come uno stronzo per fare un po' di conversazione e invece devo chiamarti puttana io per farti reagire. Io sono sempre una donna nera, ok? E quindi esigo rispetto. Ormai Tupac Shakur ha grandissima notorietà, ma questa notorietà si accompagna a grandi problemi con la giustizia, viene coinvolto in diverse risse, spara addirittura a 2 poliziotti ferendoli, insomma è un personaggio che vive in prima persona le stesse vicende che canta nei suoi dischi. E sempre nello stesso anno del film Poetic Justice, il 93, Tupac rilancia il suo secondo album, Strictly for My Niggas, che diventa immediatamente disco di platino. Il singolo di riferimento, Keep Your Head Up, è un vero e proprio inno alle donne nere, un invito a tenere la testa alta, Your Head Up, a difendere la propria identità. È un disco che naturalmente non impedisce a Tupac di avere dei guai con la giustizia proprio a causa di una donna. Lo vediamo tra poco. Stiamo raccontando oggi la rapidissima ascesa di Tupac Shakur, cantante rap afroamericano che si trasferisce dalla East Coast, da New York, dove viveva con la madre Afeni, madre membro delle Black Panther, e va in California, nella West Coast, dove inizia una carriera cinematografica, ma soprattutto discografica, di grande successo. E nasce come cantante, il rap è sicuramente la sua forma di espressione, di comunicazione per eccellenza, ma Tupac ama moltissimo anche recitare. Sentiamo perché. Mi piace che la gente mi dica: hai fatto un buon lavoro. Quando fino ad oggi nella mia carriera mi hanno detto tutti: ehi voi ragazzi. Mi è piaciuto che sono venuti da me e mi hanno detto: Tupac, sei un grande attore. E ora voglio esserlo ancora di più. Voglio parti migliori come Terminator, cose diverse. Così il pubblico può vedere cosa so fare, oltre a parlare come uno stupido. Voglio una parte in un film d'amore, così le persone possono cogliere le diversità in quello che posso fare. The diversity of what I can do. Non è un caso che alle grandi menti a un certo punto la parte più normale del loro lavoro cominci ad andare stretta, si comincia a cercare di fare cose diverse. Intanto i primi 2 album vendono oltre 2 milioni di dischi, la sua canzone Keep Your Head Up, quella rivolta alle donne nere, diventa un inno di libertà, di consapevolezza femminista. Eppure nello stesso anno lui viene accusato di violenza sessuale ai danni di una sua fan. La vicenda è intricata, è difficile da giudicare. Ci sono di mezzo altri rapper amici di Tupac. Il giovane negherà sempre alcun coinvolgimento nella vicenda, che diventa ovviamente di dominio pubblico. L'avvertenza legale si prolunga di oltre un anno. Mentre Tupac è in attesa di un verdetto, accade però un nuovo terribile episodio. È la notte del 30 novembre 1994. Tupac si trova con diversi amici e colleghi a New York. Deve fare una registrazione. Nello studio sono presenti altri gruppi rap. Nessuno fa caso a due uomini, entrambi di colore, sulla trentina, vestiti con tenute militari, perché sembrano due guardie del corpo. E negli studi in cui si fa rap in quel periodo entrava un po' un sacco di gente, insomma. E a un certo punto Tupac e i suoi si avvicinano agli ascensori. E i due, minacciandoli con le pistole, li obbligano a stendersi per terra. Lui cerca di reagire, i due gli scaricano addosso 5 colpi, non in parti vitali. Lo derubano di tutti i gioielli d'oro che indossa per svariate decine di migliaia di dollari. Insomma, la sobrietà non è mai stata una cifra stilistica di quel tipo di rapper. Ma perché hanno sparato a Tupac? La rapina sembra subito una scusa, e volevano colpire lui, e lui fa risalire la guardia alla grande rivalità conosciuta con il nome di faida hip hop tra East Coast e West Coast. I love my East Coast. Io amo la East Coast. Io vengo da lì, sono di New York. Porto i jeans di New York. Che non l'ami è una grandissima bugia. Se volete amare la nostra musica, studiate. Tornate al passato e studiate. Studiate chi ero prima di incontrare Biggie. Studiate chi sono diventato dopo averlo conosciuto. Studiate che uomo sono. Studiate quando metà di New York, la metà dei rapper, dei manager e degli agenti era lì quando mi hanno sparato, e nessuno è stato in grado di darmi alcuna informazione di quanto abbiamo indagato senza scoprire chi è stato. E allora, da uomo a uomo, niente pistole, solo tu ed io. Ti chiedo solo questo: se sei un gangster, se sei il re di New York, io da te questo me lo aspetto. Se no, io lo distruggo il tuo impero. Eh sì, la situazione si fa pesante. Il Biggie al quale fa riferimento Tupac è il famosissimo Notorious Big, che è il rapper punta di diamante della Bad Boy Records, la casa discografica della East Coast. La Bad Boy è acerrima rivale della Death Row Records, casa discografica della West Coast, della quale fa parte Tupac. L'hip hop nasce per le strade di New York, che rimane la capitale indiscussa dell'hip hop fino ai tardi anni 80, ma poi in California fioriscono fenomeni come Dr. Dre, Snoop Dogg, e alla Death Row Records, fondata da Suge Knight, arrivano una serie di stelle nascenti, fra le quali brilla lui, Tupac, il nostro protagonista. E si accende una rivalità tra le due grandi case discografiche che si contendono al mercato a suon di milioni di dischi venduti. La rivalità però si scatena anche tra le due coste. I fan di entrambe le fazioni si schierano contro gli avversari in una lotta vera e propria, dall'enorme impatto sulla cultura hip hop. Tupac Shakur da una parte e Notorious Big dall'altra sono le star di questa faida, che purtroppo si combatte senza esclusione di colpi, come abbiamo visto. Trova espressione anche nelle canzoni dei due. Shakur scrive un brano diretto a Biggie, It's Em Up, dove c'è un verso che suona così: questa non è una battaglia di freestyle, verrete tutti uccisi. Motherfuckers know what time it is. I don't even know why I'm on this track. Y'all niggas ain't even on my level. I'ma let my little homies ride on you. Tupac sopravvive alla sparatoria di New York. Nonostante le 5 pallotte, del giorno dopo esce dall'ospedale su una sedia a rotelle, si presenta in tribunale, dove intanto ascolta la sentenza della sua causa, condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione per abuso sessuale. In una telefonata con sua sorella, Tupac avanza l'ipotesi che la ragazza che lo ha denunciato possa essere collegata a quelli che gli hanno sparato. Insomma, lui è convinto che qualcuno lo voglia togliere dalla circolazione. A un giornalista che gli chiede se sia così famoso per le sue canzoni, per i suoi film o per le controversie che scatena, risponde così: My big mouth. per la mia grande bocca, la mia grande bocca. Ho una grande bocca. Parlo con il cuore, sono sincero. Quello che succede, succede. Sono famoso perché faccio discutere. Io sto cercando di trovare il mio posto nel mondo. Essere qualcuno piuttosto che fare soldi e basta. In passato ho fatto dei casini, ma ho imparato, ora sono più forte. Non parlo da ignorante, ora penso prima di agire. Eh sì, l'esperienza del carcere lo segna profondamente, anche se dei 4 anni e mezzo che dovrebbe scontare, in realtà passa in galera solo 8 mesi, esce con la condizionale, anche perché il suo manager Suge Knight paga una cauzione di $1.300.000 in America. Funziona così: più soldi hai e meno stai in galera. Mentre però si trova ancora in carcere, esce il suo terzo album, Me Against the World, Io contro il mondo, è un titolo emblematico, vende oltre 3 milioni di copie, però è il suo quarto lavoro da solista, che esce nel febbraio del 96, All Eyes on Me, che è considerato il suo massimo capolavoro. È un album doppio con duetti importanti come l'amico rapper Snoop Dogg o il mitico Dr. Dre, brani che rappresentano in pieno il sound del West Coast hip hop, sono dei veri e propri inni allo stile di vita californiano. All Eyes on Me è l'album che ha venduto di più nella storia dell'hip hop, ha venduto una cifra impressionante, 36 milioni di copie. One nigga's getting jealous and motherfuckers die. Depend on me like the first and 15. They might hold me for a second, but they won't get me. We got 4 niggas and low riders and ski masks screaming thug like. Every time they pass, all eyes on me. Live the life of a thug nigga until the day I die. Live the life of a boss player. All eyes on me. Dopo Lies on Me, Tupac inizia a lavorare al suo quinto album, è molto prolifico. L'album si chiama The Dawn Chi Illuminati, The Seven Day Theory, un album scuro, solenne, dove predice spesso la propria morte, che peraltro prevede anche nelle interviste che gli fanno. Che cosa ti accadrà nei prossimi 10-15 anni? Dove ti vedi? Nel migliore dei casi al cimitero, trasformato in cenere e fumato dai miei amici. No, questo è il caso peggiore, sì sì, è il peggiore. E infatti la sua previsione si avvera. Il 7 settembre 1996 Tupac Shakur si trova a Las Vegas, sta rientrando in albergo in auto dopo aver assistito all'incontro di pugilato tra Mike Tyson e Bruce Seldon. Al volante Suge Knight, e lui gli siede accanto, sono le 23:15, improvvisamente una Cadillac bianca si accosta alla loro BMW, spara una raffica di almeno 12-13 colpi, 4 raggiungono Tupac al petto, al bacino, alla coscia e alla mano destra, mentre Suge rimane miracolosamente illeso. Il cantante è gravissimo e gli viene rimosso il polmone destro, le sue condizioni però sono disperate. Dopo 6 giorni, il 13 settembre, Tupac Shakur muore. Le indagini successive scatenano una serie infinita di possibili responsabili, di mandanti, di bande rivali. Si parla perfino della possibilità che il mandante potesse essere lo stesso Suge Knight, in quanto Tupac voleva lasciare la sua casa discografica. Ma naturalmente il maggior indiziato, anche se non esistono prove, è proprio lui, il suo acerrimo rivale Notorious Big, che fa questa dichiarazione. Questo omicidio mi ha scioccato più di ogni altra cosa. Sono rimasto male perché Pac era una pellaccia, era uno forte. Quando mi hanno detto che gli avevano sparato, ho pensato, ancora, gli sparano sempre. Una volta in più ci farà un paio di canzoni e via. Ma quando è morto mi ha preso davvero male. È tremendo perché dalla morte non si torna. Sono stato male, ma poi devi reagire. Devi pensare alla famiglia, alla vita che va avanti. Purtroppo la vita non va avanti neanche per Notorious Big. 6 mesi dopo viene assassinato a Los Angeles, anche lui, il 9 marzo 97. Le circostanze sono molto simili a quelle del suo rivale. 2 morti che fino ad oggi non hanno trovato un colpevole. E all'interno di questo scenario così complesso, in cui la musica, la poesia si accavallano con il delitto, addirittura con tutta la vita ai bordi della società, ho bisogno di districarmi, quindi ho bisogno di una consulenza illustre e ho chiamato un mio amico Jay Ax. Ciao Ax. Ciao zio, come stai Enrico? Bene, bene, bene. Dunque, io sto raccontando la storia di Tupac, ma non so se sono stato in grado di spiegare bene quanto è importante Tupac nella storia intera del rap di questi ultimi 30 anni. Beh, è importantissimo. Tutti i rapper più famosi, più influenti, citano sempre Tupac nella lista dei due tre rapper migliori di tutti i tempi, e caso vuole che siano proprio Tupac e Notorious B.I.G. insomma, amici nemici, amici nemici. Ecco, per questa faida che in qualche modo insomma ha avuto un epilogo tragico. Anche se non si sa bene, ma da cosa dipendeva secondo te? Dal fatto East Coast, West Coast? Perché in fondo erano due personaggi simili da un certo punto di vista, dovevano stare dalla stessa parte della barricata, no? Beh, è tutto partito comunque da... non sono stati proprio loro a fomentare la cosa. Io anche per esperienza diretta, come tu sai, sono delle scene che poi spingono gli artisti che sono, diciamo, i più famosi, che hanno più successo provenienti da quella scena, a scontrarsi, soprattutto nel rap, successo anche nel rock comunque. Ma ad esempio in questo caso è partito dalla Bad Boy contro la Death Row, che erano le etichette, no? Sì. Dove era coinvolto sempre Suge Knight in queste cose, che è un personaggio un po' equivoco, e io ho paura anche a parlarne con te dall'altra parte del mondo in Italia di questo personaggio, quindi cioè sono cose che meglio lascio stare. Questi rimando a internet, Wikipedia, che ne sanno tanto, ma la cosa triste è che comunque furono due realtà, anche magari di persone che comunque erano legate alla strada e quindi erano ancora con quel processo mentale, e in un altro senso anche chi ci ha poi lucrato dopo, e perché la polizia non ha mai voluto poi alla fine scoprire chi veramente è stato, sono tutte cose che lasciano ancora tante domande. Quindi anche per me, io ti posso spiegare che comunque a un certo punto negli anni 90 ci fu una serie di dissing che coinvolsero all'inizio persone più underground come i Compton Most Wanted, Team Dog, e poi proprio quando coinvolse le due maggiori etichette cominciarono anche Tupac e Notorious B.I.G., che comunque si erano amici prima. La cosa allucinante è che questi due erano due bravissimi rapper, quindi quando hanno iniziato a sforzarsi a vicenda, la cosa oltretutto era diventata anche per la prima volta fighissima da seguire, perché i due facevano delle cose pazzesche, facevano morire dal ridere quando si mettevano a dizzare l'un l'altro, no? Certo. Fino a poi al fatto che erano gangsta veri, e quindi oltrepassarono la linea fino a dire io mi sono fatto la tua donna e queste cose, da cui poi non si tornava più indietro. Però alla fine non si sa, ecco, certo, ancora chi è stato e perché. Senti. Forse è come sempre, alla fine arriva la gente, fa il santo, poi lo deve bruciare, no? Anche certo, lì il loro sacrificio è servito come poi per far fare pace a tutti, capito? Però sono dovuti morire loro due. Grazie Ax, sei stato gentilissimo. Figurati, un abbraccio. Un parlare con te. Grazie. Come dicono i fan di tutti i grandi artisti, Tupac è morto ma non morirà mai. Escono album postumi, ma in realtà insomma il vantaggio di chi fa musica, soprattutto a quei livelli con tanta gente che ti vuol bene, è che anche quando muori c'è qualcuno che tiene viva la fiamma del tuo passaggio su questa terra. Ci auguriamo che viva anche il suo desiderio, quello che lui sperava tanto di ottenere con le sue canzoni e che aveva espresso benissimo durante uno dei tanti interrogatori che aveva subito dalla polizia. Era sua intenzione con i suoi dischi incitare i giovani neri alla violenza contro la polizia? No. Tentava di provocare qualcuno a fare qualcosa in particolare? Voleva provocare o convincere la gente a fare qualcosa? Sì. Ci dica cosa? Pensare, usare la propria testa. pensare, usare la propria testa. Già questo sarebbe per ognuno di noi un grandissimo colpo d'ala. E colpo d'ala come quello che ha fatto Tupac Shakur, che ha scritto con il rap delle storie di grande livello stilistico e poetico, e ha determinato un'era, purtroppo anche con la sua morte tragica, perfettamente inserita in quel terribile contesto, diciamo, gangsta, di cui anche Ax ci ha parlato prima. Persone che hanno saputo darlo questo colpo d'ala. Se volete dare e mandarci dei commenti e segnalarci altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falco il gabbiano @radio24.it, oppure venite a cercarci e a cercarmi su tutti i nostri social, come già fate molto spesso. Ciao, a lunedì. Il falco e il gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno.